Today we shall continue with our series of Dhamma talks on which topic? Wisdom. And we shall in particular explore today how wisdom is developed. Continuiamo la nostra serie di discorsi sulla saggezza. Oggi vedremo in particolare come viene sviluppata. Now, as we have seen so far, intuitive wisdom does not arise in a haphazard manner, but rather in a very systematic manner. Come abbiamo visto, la saggezza intuitiva non sorge a caso, ma sorge in modo sistematico. And the very, very first forms of arising of wisdom occur when we observe the rising and falling movement of the abdomen, and we get to know various sensations there. We observe other sensations in the body and come to discern those from one another, and we also come to discern various mental formations. Quando inizia a svilupparsi la saggezza intuitiva è quando noi osserviamo salire e scendere dell'addome, quindi iniziamo a riuscire a osservare tutte le sensazioni che sono lì e le sensazioni che ci sono anche nel resto del corpo, e poi iniziamo a discernere anche gli aspetti mentali. And so in mindfully observing predominant objects, gradually we come across the five hindrances, and we come to know each and every of those five hindrances, at least in some manner, to some extent. E poi, mentre osserviamo con consapevolezza gli oggetti predominanti, incontriamo i cinque ostacoli e quindi iniziamo a conoscere ognuno di questi cinque ostacoli in modo almeno generale. And then we further come to understand the difference between unwholesome mental states and wholesome mental states. E quindi iniziamo a capire la differenza tra gli stati mentali salutari e quelli non salutari. And if we then continue to practice, we will sooner or later learn to discern between bodily formations and mental formations, so body and mind, or mind and body. E se continuiamo a praticare, prima o poi riusciremo a distinguere le formazioni mentali da quelle fisiche, quindi a distinguere la mente dal corpo. And this capacity to discern between mentality and materiality, nama and rupa in Pali, that is a form of intuitive wisdom. E la capacità di distinguere tra la materia e la mente, e nama e rupa, questa è una forma di saggezza intuitiva. And this intuitive wisdom does not arise by reading books, it does not arise by imagination, but rather based on a number of days or couple of days of mindfulness practice. E questa forma di comprensione, di saggezza, non sorge leggendo i libri o dall'immaginazione, ma sorge con delle varie giornate di pratica o anche soltanto un paio di giornate di pratica. And this particular understanding comes under a particular name, namely the knowledge of discerning mind from matter. Nama rupa pariceta jnana in the Pali scriptural language. E questa particolare conoscenza ha un nome che appunto si chiama la conoscenza che discerne tra mente e materia. Nama rupa pariceta jnana. There you go. And it is a very fundamental intuitive understanding. Ed è una comprensione intuitiva davvero fondamentale, cioè è la base di tutto. And the following insight knowledges are all based on this very first one. Perché poi tutte le altre conoscenze di insight hanno come fondamento questa prima conoscenza. So the second insight then is based on the third insight is based on the first and second and so forth. Quindi poi il secondo insight è basato sul primo, il terzo insight è basato sul primo e sul secondo e così via. And each and every insight knowledge goes along with a variety of experiences, physical as well as mental. E ogni particolare conoscenza di insight avviene con una varietà di esperienze particolari, sia mentali che fisiche. And in every insight knowledge, the rising and falling movement of the abdomen will manifest in a different way. E in ogni conoscenza di insight, il salire e scendere dell'addome si manifesta in un modo diverso. And for you to find out for yourselves. E questo sta a voi scoprire in che modo. And beyond the rise and fall, we may notice a number of other very particular sensations that occur with regard to a particular insight knowledge. E oltre a salire e scendere dell'addome, noi possiamo notare altri tipi di sensazioni che sono sempre correlati a un particolare conoscenza di insight in cui avvengono. And even the sitting posture, the way we sit there in meditation, may change from insight knowledge to insight knowledge. Persino il modo in cui noi stiamo seduti durante la nostra meditazione seduta può cambiare da una conoscenza di insight all'altra. And the same thing can also be said of mental formations. So in every insight knowledge, a particular composition of mental factors will be prominent. E la stessa cosa vale anche per le formazioni mentali, quindi in ogni conoscenza di insight c'è una serie di fattori mentali che sono più evidenti, più prominenti. And the actual insight knowledge does not occur right away, but rather there's a preliminary phase in which one has to observe objects from a particular or in a particular way, and then when the necessary purification has been achieved and the necessary understanding is there, that eventually the full insight will occur. E quindi la prima, tutta. In generale, ok, le conoscenze di insight non sorgono così, come abbiamo detto, per caso, però ci vuole tutta una serie, diciamo, di preparazione, di comprensione preliminare e anche di purificazione, e quando ci sono poi queste condizioni possono sorgere queste conoscenze. And if we take a really close look at how this intuitive wisdom unfolds within one insight knowledge, then we can say that typically physical formations will be in the foreground first for us to observe, then for a while the feelings, vedana, will be in the foreground for us to observe, then the perceptions, then the volitional formations, and eventually consciousness. E quindi mentre si sviluppa questa saggezza intuitiva attraverso queste conoscenze di insight, vedremo che all'inizio sono più predominanti, più evidenti le sensazioni fisiche del corpo, poi potremo osservare meglio anche i vedana, le sensazioni e poi la percezione e la coscienza e la le formazioni volitive. Yeah. And I think, well, gradually we also learn to understand the three universal characteristics of impermanence, unsatisfactoriness, and or suffering, and non-self, anicca, dukkha, and anatta. E poi capiremo anche le tre caratteristiche universali, quelle dell'impermanenza, dell'insoddisfazione o sofferenza, e quella del non sé, l'impersonalità, anicca, dukkha, anatta. And once they've come to prominence, at later stages, they may still be noticeable in terms of our experiences. So that for a while, the anicca aspect is prominent, for a while the dukkha aspect is prominent, for a while the anatta aspect is prominent. E mentre si sviluppa anche nelle fasi più tarde della pratica, sarà possibile osservare queste tre caratteristiche in tutte le formazioni. Alcune volte sarà più evidente l'impermanenza, altre volte la sofferenza, altre volte anatta. No. The insight knowledges that have been well described, and typically when we practice we have to experience all of them. There's not really a skipping of this or that insight knowledge. E queste conoscenze di insight sono state ben studiate, diciamo, e quindi nella nostra pratica si passa attraverso tutte queste, non c'è un modo per saltarne qualcuna, non succede che se ne salti qualcuna. And on occasion there are retreatants who dislike dukkha quite a bit, and when then an insight knowledge that comes up that contains a lot of dukkha, they just don't want to go for it, and some or other move ahead in the practice, but later on the practice drops off again, and they just have to digest what needs to be digested. Succede a volte che quando un meditante arriva alle conoscenze di dukkha non vuole affrontare tutta quella sofferenza e quindi cerca di allontanarsi dalla pratica, però poi alla fine quando ritorna a praticare dovrà comunque attraversare questa fase, perché magari ci servono dei momenti di digestione a volte. And the insight acknowledges occur not just for fun, but rather they perform very specific functions. Queste conoscenze di insight non arrivano così per divertimento, ma hanno una loro funzione specifica. And typically with every insight knowledge, a new form of understanding occurs. We see formations in a different new way. And this new way of seeing things, this new view, then will replace an earlier incomplete wrong view. Con ogni nuova conoscenza di insight arriva proprio una nuova comprensione, arriva un nuovo modo di vedere le formazioni, e questa nuova comprensione che abbiamo va a sostituire la comprensione che avevamo prima, che era più incompleta. And gradually we start out our practice by focusing on the rising falling movement of the abdomen being the primary object in the Mahasi tradition, and working with the rise and fall we develop certain observational skills, and then gradually we extend these observational skills to whatever predominant object that comes along in the body or in the mind. Nella nostra tradizione di Mahasi noi iniziamo seguendo il salire e scendere dell'addome, e facendo questo sviluppiamo delle abilità osservative che poi, quando vengono sviluppate, le possiamo utilizzare per osservare tutti gli oggetti che si presentano, sia che siano fisici che mentali. And to give you one example, a retreatant may for the first time come to understand the impermanent nature of the rising and falling movement of the abdomen, in the sense that it keeps changing all the time. Per esempio, un meditante inizia a capire per la prima volta che il salire e scendere dell'addome è davvero impermanente, vede che cambia in ogni momento. And having seen this, in terms of the rising and falling movement of the abdomen, over time, gradually, one sees the same phenomenon also occurring with regard to other objects, so outside of the rise and fall. These could be other physical formations, but those could also be mental formations. Quindi, avendo visto questa cosa nel salire e scendere dell'addome, poi riuscirà a vedere la stessa cosa anche in altri tipi di formazioni, altri tipi di sensazioni fisiche, per esempio, eccetera, riuscirà a vedere nello stesso modo questi mutamenti. And one could even see this certain impermanence of certain formations in the seeing process or hearing process, smelling process, etc. Riuscirà a vedere l'impermanenza delle formazioni addirittura anche nei processi del udire, del annusare, eccetera. And when we look at the unfolding of intuitive wisdom, we can clearly state with confidence that certainly the development is from initially a gross certain knowledge of gross objects to gradually the arising of intuitive knowledge of increasingly subtle objects. E possiamo dire con sicurezza che questo sviluppo delle conoscenze di saggezza intuitiva vanno da una comprensione di oggetti che sono molto grossolani fino a una saggezza intuitiva che riesce a discernere oggetti sempre più raffinati e più sottili. And so over time our knowledge becomes wider and wider. E quindi col tempo la nostra conoscenza diventa sempre più ampia. To give you an example for that, at first we might notice only a few really pronounced thoughts. Per esempio, all'inizio magari siamo in grado di notare soltanto alcuni pensieri che sono veramente molto predominanti. But as our mindfulness gradually improves, the mind as a whole gets stronger and stronger, we notice that there's actually many more instances of thinking occurring. Ma quando la nostra consapevolezza cresce e diventa sempre più forte, possiamo iniziare a renderci conto che ci sono molti, davvero molti altri tipi di pensieri che avvengono. Or, to give you another example, a beginning retreatant will be happy if he or she can clearly see, clearly understand, let's say, one or two sensations within one rising movement or falling movement of the abdomen. Poi diamo un altro esempio, per esempio un principiante di solito è abbastanza contento se riesce a vedere una o due sensazioni in modo molto chiaro in un movimento del salire. And such a retreat might think, that's probably all there is. E quindi questo meditante può pensare, beh, probabilmente tutto quello che c'è da vedere è questo. But as over time the mind becomes increasingly sharp and refined, it will pick up many more sensations within one single rising movement or falling movement. Ma poi quando la mente invece diventa molto più acuta e più raffinata, allora riesce a vedere sempre più sensazioni in un movimento del salire o dello scendere. Now, to be even more specific, within one single rising movement, there could be as many as 10, 15 different sensations that the mind is capable of picking up. Per essere più specifici, si può dire che in un movimento del salire ci possono essere anche 10 o 15 sensazioni che la mente può essere in grado di notare. E a volte anche più di queste. So it gives you an idea how over time, our wisdom becomes wider and wider. Questo per dare un'idea che con il tempo la nostra saggezza può veramente diventare sempre più forte, sempre più ampia. Now, from a practical point of view, a meditator's point of view, in relationship to wisdom, when we observe an object, whatever the object might be, to check for ourselves whether we are actually knowing something about the object or just sitting there and daydreaming. Quindi da un punto di vista pratico, quando c'è un oggetto e noi lo notiamo, cerchiamo di renderci conto se stiamo veramente comprendendo qualcosa, conoscendo qualcosa di quell'oggetto, o se invece stiamo un po' fantasticando occhi aperti, siamo un po' sognanti. So if we are at times not really knowing anything about an object, then we might want to adjust or readjust relevant mental factors of faith, of effort, of mindfulness, concentration and wisdom. Quindi se ci rendiamo conto che non stiamo davvero conoscendo bene un oggetto, allora quello è il momento per risistemare un po' i nostri fattori mentali, che sono quelli della fede, della saggezza, della consapevolezza, dell'energia, della concentrazione, immagino. And so in terms of the faith, check whether we have at least some extent of faith in the practice or not, and certainly in terms of effort, do we really apply ourselves or not, and is the mindfulness continuous or not, and then the same thing goes for the concentration. Quindi possiamo controllare se la nostra fede nella pratica in quel momento è presente oppure no, possiamo vedere se stiamo applicando un giusto impegno nella pratica oppure no, e possiamo vedere se la consapevolezza e la concentrazione sono abbastanza continue. And so it could be that the concentration is there, but we're not really knowing anything about the object, and certainly we need to adjust in a way that certain actual knowing takes place. Può essere che la concentrazione sia presente, però non riusciamo comunque a conoscere davvero qualcosa dell'oggetto. Allora bisogna fare degli aggiustamenti per far sì che si attivi questa conoscenza. Also, something that we want to look into is our attitude towards the practice, whether we're practicing with an attitude of resistance towards what is unfolding, or whether we're practicing with a more wholesome attitude of accepting formations as they are. E poi possiamo anche controllare l'attitudine che abbiamo verso la pratica, quindi se c'è una qualche forma di resistenza verso quello che sta avvenendo, oppure se abbiamo un'attitudine un po' più salutare, cioè di accettazione, di accettare tutto quello che succede. Now, on occasion it happens that certainly interview after interview, a retreatant comes and reports exactly the same thing. And what do you think of this? Succede che un colloquio dopo l'altro arrivino tutti i meditanti e che mi dicono la stessa cosa. Che cosa credete che sia? Much wisdom unfolding, new wisdom unfolding. Qualche nuova saggezza che si sta sviluppando? Well, the answer, there's not much happening there. The practice is probably stagnating. No, la risposta è che la pratica sembra più stagnare, che non succeda niente. And certainly, so if the practice goes well, then there will be always certainly something new to find out. Poi quando la pratica invece non va bene, c'è sempre qualche cosa di nuovo da scoprire. No, something new does not necessarily always mean some pleasant experience. It could also be a new unpleasant experience. Quando dico qualcosa di nuovo non vuol dire che sia un'esperienza piacevole, può essere anche un'esperienza nuova ma spiacevole. And as mentioned already at the very outset of this retreat, we want to check very carefully whether the mind gets caught up in concepts, in analyzing one's certain experiences, in judging one's experiences, thinking too much, self-evaluation and certain the like. Come ho detto all'inizio del ritiro, cerchiamo di fare molta attenzione quando nella nostra mente iniziano a essere presenti dei concetti, iniziamo ad analizzare le cose, a giudicarle, magari c'è dell'autogiudizio, oppure ci diamo delle valutazioni o valutiamo quello che succede. So if any of those are occurring, including competing with other yogis, having high expectations, etc., then to let go of those as quickly as possible. E se qualcosa di questi sta accadendo, includendo anche la eventuale competizione verso altri meditanti, o se abbiamo delle aspettative alte, queste cose vanno subito notate e cerchiamo di lasciare andare il prima possibile. And another point to keep in mind in regard to the arising of intuitive wisdom, this will happen only if the mind is balanced. And by balanced we mean there's a balance of the two controlling faculties of faith and wisdom, and a balance of effort and concentration. And mindfulness is certainly the factor that ensures that certain balance. So if these four factors are out of balance, some excess is there, some deficiency is there, intuitive wisdom will not arise. Allora, bisogna dire poi che la saggezza intuitiva sorge quando la mente è in equilibrio, e con equilibrio si intende dire che la fede è in equilibrio con la saggezza, mentre l'energia, cioè lo sforzo, è in equilibrio con la concentrazione. E se qualcosa di queste è sbilanciata, allora la saggezza intuitiva non può sorgere. To explain just a bit further, if, for instance, the effort is in excess, then it cannot properly function, the mind cannot properly function. Or if concentration is deficient, again, the mind cannot function properly. Quindi se lo sforzo è eccessivo, la mente non può funzionare in modo appropriato, e la stessa cosa vale se la concentrazione è eccessiva. And the venerable Sayadaw Pandita Biwa himself, Burma, on many occasions has certainly insisted that, or has urged the meditators to really apply themselves wholeheartedly to the practice, and with that to have clear-cut experiences. E Sayadaw Upandita dalla Birmania molto spesso proprio sottolineava, incitava i meditanti a impegnarsi veramente nella loro pratica, in modo che poi i meditanti possano avere delle esperienze, cos'è clear-cut? Clear-cut. Precise. And when that is the case, when experiences are clear-cut, precise, then based on this faith, strong faith can arise. But if the experiences are somewhat unclear, well, then faith, the resulting faith will be not very strong. Questo perché quando facciamo delle esperienze che sono davvero così nitide, molto chiare, molto precise, allora poi arriva la fede verso la pratica, aumenta, mentre se le nostre esperienze sono non troppo chiare, sono un po' confuse, la fede non riesce a sorgere così forte. One more point. Andrea Huber, who is with us suddenly here during this retreat, has, during interviews back in Lumbini, related how she ensures the continuous arising of wisdom by asking, what am I knowing now? What am I knowing now? And now, and now, and now. E Andrea, che è qua in questo momento nel ritiro con noi, quando ha fatto un colloquio con me a Lumbini, mi ha detto come faceva lei ad assicurarsi di avere una consapevolezza continua istante dopo istante. Era come se si chiedesse in ogni momento cosa sta succedendo ora e ora e ora e ora. And if wisdom or knowledge occurs moment after moment after moment, the mind becomes extremely sharp. E se questa conoscenza o la saggezza riescono ad avvenire un istante dopo l'altra, diventa incredibilmente acuta. No. In terms of Vatna, the realization of Vatna, the Dhamma, which is part of the unfolding of intuitive wisdom, this may happen in a sudden manner, whereas the practice leading up to the realization of the Dhamma typically unfolds in a gradual manner. E quando si parla della realizzazione poi del Dhamma, questa che avviene con grazie a tutto lo sviluppo della pratica, questa cosa avviene piuttosto all'improvviso, però prima deve essere sviluppata la pratica in modo graduale. And in terms of Vatna, this gradual development of Vatna, the practice, the Buddha has been recorded as Satna saying in the Majjhima Nikaya, I do not say that final knowledge is achieved all at once. On the contrary, final knowledge is achieved by gradual training, by gradual practice, by gradual practice. E il Buddha dice, infatti, riguardo alla gradualità della pratica, dice, io non affermo che la conoscenza finale viene ottenuta così di botto, all'improvviso, però dico che viene sviluppata grazie a un addestramento graduale e una pratica graduale. Along that same line, there's a passage in the Anguttara Nikaya that Satna states the following. Just as the great ocean slants, slopes and inclines gradually, not dropping off abruptly, so too in the Dhamma and discipline, penetration to final knowledge occurs by gradual training. E nell'Anguttara Nikaya si trova questa similitudine, così come un grande oceano si inclina gradualmente, nel senso dalla spiaggia diventa sempre più profondo, così anche nella pratica la saggezza gradualmente si sviluppa. In this Dhamma and discipline, in questo Dhamma, in questa disciplina. Yeah, the final knowledge occurs by gradual training, it occurs by gradual activity and by gradual practice, and not abruptly. Quindi questa liberazione finale non avviene in modo così improvviso, ma appunto grazie a una pratica, un addestramento, una conoscenza graduale. And this is the first astounding and amazing quality that Satna, the retreatant, see in this Dhamma and discipline. E questa è proprio la qualità, l'aspetto più stupefacente che i meditanti possono vedere in questo Dhamma. And seeing in this certain way, or because of Satna's seeing in this way, they take delight in it. E dato che vedono questo, in questo modo, poi riescono a deliziarsi nel Dhamma. Now, still in terms of Vatna, the realization of Vatna, the Dhamma, some very useful illustrations that have been given in the text. Riguardo ancora la realizzazione del Dhamma, sono state date delle illustrazioni belle nei testi. And so we have, for instance, this gradual process of purification, and the example for this is the gradual refining of gold. Per esempio, per questo graduale processo di purificazione, c'è l'immagine del, del purificare l'oro. And then other illustrations, or another illustration is there, with regard to the receding of mental defilements, the gradual subsiding of mental defilements. E poi anche riguardo al recedere e al diminuire di alcuni inquinanti mentali. Now, the first illustration is from the Anguttara Nikaya, and the relevant sutta's name is the soil remover. E il, la prima illustrazione è nell'Anguttara Nikaya, il titolo del sutta è colui che rimuove il terreno, la terra. It's a bit long, but yet it really states the point. È un po' lungo, però colpisce proprio il punto. O retreatants, there are gross defilements of gold, namely soil, grit and gravel. Meditanti, ci sono dei, degli inquinanti, delle contaminazioni molto grossolane dell'oro, cioè il terriccio, il, la ghiaia e i granelli. Now the soil remover, or his or her apprentice, first pours the gold into a throw and washes, rinses and cleans it. Quindi prima di tutto colui che è lì per l'orefice, non so, oppure il suo apprendista scioglie l'oro, no, lo lava in un catino, lo lava e lo rigira e lo lava. When that has been removed and eliminated, there still remain middle-sized defilements in the gold, namely fine grit and coarse sand. Però anche quando ha pulito le contaminazioni più grossolane, nell'oro rimangono quelle più sottili, ci sono del ghiaietto molto più fine e i granelli di sabbia, sabbietta. The soil remover or apprentice washes, rinses and cleans it again. Quindi questo pulitore oppure il suo apprendista lo sciacquano ancora e ancora. When that has been removed and eliminated, there still remain subtle defilements in the gold. Ma anche quando vengono eliminate queste altre cose, poi nell'oro ci sono comunque delle altre contaminazioni ancora più sottili. Such as fine sand and black dust. Come della sabbia molto fine e della polvere nera. And so the soil remover washes, rinses and cleans it again. E quindi fanno di nuovo questo processo e lo sciacquano e lo lavano di nuovo. And eventually those will be eliminated and only grains of gold remain. E alla fine tutte queste cose vengono eliminate e rimangono soltanto i grani d'oro. The goldsmith or the apprentice now pours the gold into a melting pot and fans it. Quindi l'orefice oppure il suo apprendista a questo punto lo mettono nel pentolino giusto e lo sciolgono. And melts it and smells it. E lo sciolgono. Fluido. Ah sì. Lo filtrano forse. Lo filtrano. Lo sciolgono e lo filtrano. But even when this has been done, the gold is not yet settled and the dross has not yet been entirely removed. Ma anche quando viene setacciato in questo modo, filtrato, comunque non è ancora purissimo, c'è ancora qualche impurità all'interno. And the gold is not yet malleable, wieldy and luminous, but still brittle and not properly fit for work. Quindi non è ancora questo oro, non è ancora malleabile, brillante, lavorabile in modo appropriato, non è pronto per essere lavorato. Now, as the goldsmith or the apprentice continues to fan, melt and smelt the gold, a time comes when the gold is settled and the dross has been entirely removed, so that the gold becomes malleable, wieldy, luminous, pliant and properly fit for work. Quindi continuano questo processo di scioglierlo e di setacciarlo e filtrarlo in continuazione finché alla fine l'oro non diventa luminoso, malleabile, lavorabile, sì, adatto alla lavorazione. Then whatever kind of ornament the goldsmith wishes to make from it, whether a golden garland or a necklace or a bracelet, etc., that he or she can do. A quel punto, qualunque ornamento l'orefice voglia fare, che voglia fare un braccialetto, un orecchino, una collana, lo può fare. And now, so too, O retreatants, when a retreatant is devoted to the higher mind, there are, number one, in him or her gross defilements. Quindi, quando un meditante cerca di sviluppare la mente più elevata, ci sono queste cose. Prima di tutto ci sono gli inquinanti. And no, those grossolani. Sì. And those come in the form of bodily, verbal and mental misconduct. Che arrivano sotto forma di una condotta non corretta, corporea, verbale o mentale. An earnest, capable retreatant abandons, dispels, terminates and obliterates them. E i meditanti, continuando a meditare, riescono a farli sparire. Queste condotte inappropriate. And when this has been done, number two, there remain in the retreatant middling defilements. Quando questi grossolani sono stati eliminati, nel meditante rimangono quelli medi grossolani. Such as sensual thoughts, thoughts of ill will and thoughts of harming. Pensieri di desideri sensoriali, pensieri di avversione o di danneggiare altri. An earnest, capable retreatant abandons, dispels, terminates and obliterates them. E il meditante che è abile e si impegna riesce a far svanire anche questi. And then, as number three, when this has been done, there still remain in a person subtle defilements. Quando anche questi sono stati eliminati, poi nel meditante rimangono gli inquinanti più sottili. Such as thoughts about relations, thoughts about one's country, and thoughts about one's own reputation. Per esempio, pensieri che riguardano le relazioni, pensieri che riguardano la propria nazione, paese, e pensieri che riguardano la propria reputazione. An earnest and capable retreatant abandons these, dispels them, terminates and obliterates them. E il meditante, che è abile, che si impegna, riesce a far svanire anche questo. And when this has been done, there still remain thoughts connected with the Dhamma. Quando anche questi sono stati eliminati, rimangono però ancora dei pensieri connessi con il Dhamma. Which, in more colloquial language, we could refer to as Dhamma reflections. che in modo più colloquiale le possiamo definire delle riflessioni sul Dhamma. And even those Dhamma reflections on profound topics like the four noble truths or the Eightfold Noble Path, etc., even those we need to label, we need to observe and know and let go of. E anche se queste riflessioni sono profonde, magari riguardano le quattro nobili verità, il nobile o duplice sentiero, comunque dobbiamo notarle, queste riflessioni, osservarle e lasciarle andare. Now, that concentration is not peaceful and sublime, not gained by full tranquility, not attained to unification. It's not. Allora, questa concentrazione non è pacifica, non è completamente... Non è stata ottenuta attraverso una tranquillizzazione totale. Not attained to unification. Non è stata ottenuta con un'unificazione. But rather is reined in and checked by forcefully suppressing the defilements. Ma invece è basata, si è creata con la soppressione degli inquinanti. Now, but, O retreatants, there comes a time when one's mind becomes internally steady, composed, unified and concentrated. Però ci sono dei momenti in cui la mente diventa internamente pacifica, composta, raccolta e unificata e concentrata. And so please notice here the word internally steady and composed. These are qualities that are necessary for, for instance, the knowledge of equanimity to occur. E notate che quando viene detto internamente stabile e composta, raccolta, questa è una qualità essenziale, per esempio, per l'equanimità. And that concentration is peaceful and sublime. E che è una concentrazione pacifica e sublime. And gained by full tranquillization. E questa viene raggiunta con una piena tranquillità, tranquillizzazione. And attained to unification. E ottenuta grazie all'unificazione. And it is not reined in and not checked by forcefully suppressing the defilements. E non è stata, non viene raggiunta continuando a controllare e a sopprimere gli inquinanti. Then, there being a suitable basis, a retreatant is capable of realizing any state realizable by direct knowledge. E essendoci questa base, il meditante può realizzare, può comprendere qualunque cosa che possa essere compreso. And capable of realizing any state by direct knowledge toward which one might incline one's mind. Quindi è capace di avere una comprensione, grazie a un'esperienza diretta, verso qualunque stato in cui inclina la sua mente. And if a person wishes, may I, with the destruction of the taints in this very life, realize for myself with direct knowledge the taintless liberation of mind, of liberation by wisdom and so on, then one is capable of doing that. Quindi se c'è questo desiderio che io possa adesso realizzare la conoscenza e la liberazione finale della distruzione delle contaminazioni in this very life realize for oneself realize for oneself, realizzarlo da me, questo. With direct knowledge, the taintless liberation. Sì, realizzare la liberazione senza macchia, senza contaminazione, allora sarà in grado di farlo. Yeah. Now, Dhammapada verse number 239 expresses this gradual decreasing of grinding down of the defilements as follows: by degrees, little by little. Allora, nel Dhammapada viene spiegata questa diminuzione, erosione degli inquinanti in modo graduale, quindi viene detto appunto diminuendo poco alla volta, from moment to moment, da un istante all'altro. A wise person removes, una persona saggia rimuove, his or her own mental defilements, i suoi propri inquinanti mentali, as a smith removes the dross of silver or gold, come un orefice rimuove la contaminazione dall'argento o dall'oro. Another illustration is that of a carpenter and the handle of the axe. Un'altra similitudine è quella di un carpentiere e del manico della sua ascia. And so, when a carpenter or an apprentice looks at the handle of his or her axe, then the person will see impressions of one's fingers and of one's thumb, but does not know so much of the axe handle has been worn away today, so much yesterday, so much earlier. Quindi quando un carpentiere oppure il sopprendista guardano il manico della loro ascia, vedono che è rimasta l'impronta della loro mano o del loro pollice sul manico, però non sono in grado di sapere quanto di questo manico è stato eroso in quella giornata stessa o il giorno prima o altri giorni prima. And only after a longer period of time, maybe a month or two, it becomes obvious that the handle is not as it was initially. Quindi soltanto dopo un periodo di duro lavoro, quindi magari dopo un mese o due, che diventa chiaro che questo manico è stato eroso, cioè c'è un'impronta rimasta. And so too, O retreatants, when a retreatant dwells devoted to development, even though no such knowledge occurs to him, e quindi quando un meditante è devoto alla pratica e continua a impegnarsi, anche se non sorge nessun tipo di conoscenza in lui in riguardo a questo, so much of my taints has been worn away today, so much yesterday, so much earlier, yet when they are worn away, the knowledge occurs to him or her that they have been worn away. Quindi un meditante magari non riesce a capire oggi sono state eliminate tot inquinanti, ieri quest'altra quantità, eccetera. Però dopo un po', quando invece gli inquinanti proprio vengono, diminuiscono evidentemente, allora si può sapere che sono stati erosi. And so, if, for instance, a retreatant is suffering from quite a lot of restlessness, however, is mindful of it day after day after day, then after maybe a month or two or three, the degree of restlessness might already be greatly reduced. Quindi se un meditante soffre molto di una grande irrequietezza, una grande agitazione, ma continua a osservarla con consapevolezza un giorno dopo l'altro, dopo un periodo di tempo più o meno lungo, un mese, anche due, eccetera, potrà osservare che questa irrequietezza è diminuita tantissimo. The last point for today is certainly the relationship between the unfolding of wisdom and certainly the rising of faith. Quindi un altro argomento di oggi, no, l'ultimo argomento di oggi è la correlazione tra la saggezza e lo sviluppo della fede. So when we are practicing mindfulness, carefully observing objects as they unfold, and we come to understand them in a clear-cut, precise manner, then out of this clear-cut wisdom arises faith. Quindi quando noi pratichiamo e con la nostra consapevolezza osserviamo tutti questi oggetti, questi fenomeni che si sviluppano e li comprendiamo, li conosciamo con chiarezza, grazie a questo si sviluppa poi la saggezza e grazie alla saggezza si sviluppa anche la fede. And with a strengthened faith, we will have more desire to practice, we will exert more effort, our mindfulness becomes more continuous, and our concentration becomes stronger and stronger. And with that, then, our intuitive wisdom knowledge will deepen even further. E quindi grazie a questa fede che viene rinforzata ci sarà più energia per praticare, quindi metteremo più impegno, la consapevolezza sarà più continua, la concentrazione diventerà più forte, grazie a questo sorgerà una più potente, anche una più profonda saggezza e così. Initially, the faith may still be pretty shaky. All'inizio la fede è ancora traballante. However, as we practice, our faith at times suddenly may get strengthened. When difficulties in the practice occur, typically the faith will reduce again a bit. Poi man mano che pratichiamo la fede magari si rinforza un po', poi però se incontriamo delle difficoltà di solito questa fede diminuisce di nuovo. And then it certainly will strengthen further, and with the realization of the noble path of stream entry, with that one's faith becomes unshakable. Poi torna a rafforzarsi ancora un po' e poi quando viene realizzato il primo nobile sentiero dell'entrata nella corrente, allora questa fede diventa incrollabile. And with that you can see the development in terms of wisdom, of knowledge, but you can also see the development that takes place over time in terms of the faith, trust and conviction. Quindi possiamo vedere in questo modo lo sviluppo che c'è sia nella saggezza e nella conoscenza, ma anche poi con il tempo lo sviluppo che c'è anche in questa fede che diventa una forte fiducia conviction. È un forte convincimento proprio. Yeah. Allow me to conclude this discourse by wishing may you practice with faith, with strong desire to practice, good effort, sustained mindfulness and strong concentration. May this lead to the arising of intuitive knowledge that ultimately then realizes the peace of Nibbana. May it happen during this very retreat here at Bianchi Ciliegi. Quindi per concludere vi auguro di praticare con una forte fiducia, una forte fede, una forte energia, l'impegno nella pratica e poi quindi di sviluppare anche la consapevolezza, la concentrazione e grazie a tutte queste cose di realizzare la pace del Nibbana magari anche qui nel ritiro Bianchi Ciliegi. Okay. Yes,